Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. In questo programma abbiamo parlato di tanti musicisti e di tanti parleremo ancora, e molti sono pietre miliari nella storia della musica. Poi ogni tanto capita la figura che va oltre, una figura con la quale si entra nella leggenda, addirittura in questo caso una leggenda di una persona che è ancora viva. Parliamo di Brian Wilson, la leggenda pura e il vero artista che sta dietro al mito Beach Boys. Lo facciamo anche grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, Domenico Mastrogiacomo. Buongiorno Domenico. Buongiorno. Allora, tu intanto di dove sei? Io sono della provincia di Bari. Ah, e sei un fan di Brian Wilson. Spiegaci cosa ti attira e perché vuoi che noi raccontiamo la sua storia. Io vorrei innanzitutto sottolineare il fatto che in realtà non sono un fan. Sono uno che ha, diciamo, scoperto lo stile di questo musicista grazie ad una sua canzone che era stata mandata in onda durante una pubblicità. Ah, vedi. C'aveva una musicalità e delle sonorità particolari che certo, io non avevo mai ascoltato, ma la musica di Brian Wilson è a sé stante. Lui fa delle piccole composizioni che durano pochi minuti, ma sono delle piccole perle. Perfetto, per cui spero che anche la nostra trasmissione ti piaccia. Buon ascolto a te e a tutti. Ciao Domenico, grazie. Grazie. Brian Wilson, la mente dei Beach Boys, ma uno che ha cercato per tutta la vita di fare, come dice anche Domenico, qualcosa di più di una musica da ascoltare. I pezzi di Wilson sono le sue sinfonie dirette a Dio, perché attraverso la musica ha cercato di esprimere non solo quanto più possibile la purezza del suono, ma soprattutto un senso di gioia, di vicinanza col sacro, insomma, good vibrations. Avrebbe mai potuto scrivere un capolavoro come Good Vibrations senza l'aiuto dei piani superiori? No, tutto è stato creato grazie ai piani superiori. Quindi da una parte c'è il diavolo e dall'altra i piani superiori? Sì. E lei conosce entrambi? Sì, molto bene. Eh sì, lui dice di avere un rapporto particolare con il divino, quello che lui chiama i piani superiori. Certo, in parte questo modo di vedere le cose è dovuto, come vedremo, a una forma di malattia mentale amplificata dalle droghe che per anni Wilson ha preso, dall'LSD alla cocaina fino all'eroina. Ma in tutti i casi io credo davvero che qualcuno che riesca a concepire una musica così complessa e grandiosa come quella dei Beach Boys e come quella che lui ha fatto da solo sia davvero in qualche modo in contatto con un'energia più grande e spirituale. Quando ero un bambino ascoltavo Rapsodia in blu. Fu una delle prime musiche ad entrarmi nel cuore. Rapsodia in blu. Tutto parte da qui. L'amore per la musica di Brian Wilson nasce dall'ascolto di una delle sinfonie più belle della musica classica del Novecento, la Rapsodia in blu di George Gershwin. 50 anni dopo il primo disco dei Beach Boys, lui ha perfino inciso un disco intitolato Reimagining Gershwin, grazie alla famiglia di Gershwin che gli ha affidato molte canzoni inedite dell'autore. La leggenda racconta che Brian ascoltò il brano per la prima volta quando aveva 2 anni, rimanendone già impressionato. La famiglia Wilson è molto musicale. Il padre Mario è un businessman di successo, ma è anche un compositore, mentre Audrey, la madre, adora ascoltare musica, spesso canta insieme ai 3 figli, Brian, Danny e Carl. E Murray insegna ai ragazzi qualche ballata sul pianoforte e non ci mette molto a capire che Brian ha qualcosa di più, è un talento musicale straordinario. Quando avevo circa 8 anni, mio padre mi insegnò a suonare il boogie-woogie. Mi insegnò così, ed è allora che capii che avevo davvero un talento per la musica, perché potevo fare anche meglio. Le foto dell'epoca ci mostrano i ragazzi Wilson giocare felici sul prato davanti alla villetta dove abitano. Siamo a Hawthorne, che è un sobborgo borghese vicino a Los Angeles. Siamo negli anni 50, c'è il sole, l'America è il paese del benessere, tutto sembra perfetto, ma dietro la facciata del capofamiglia affidabile, Murray nasconde una natura profondamente diversa. Mio padre era davvero un uomo ostile, un uomo incasinato e pieno di odio. Ci sgridava continuamente. Se ci sentiva parlare quando eravamo a letto, entrava in camera sbattendo la porta e urlava: «Ragazzi, dormite o vi picchio di santa ragione!» Ci parlava così, sì. E così Brian diventa quasi sordo a un orecchio, probabilmente per uno schiaffone ricevuto dal padre. D'altra parte, è proprio il padre che spinge i figli a fare musica e sarà lui a avere un ruolo importante nei primi anni dei Beach Boys. Come disse anni dopo Danny Wilson, uno dei fratelli, l'unica cosa che teneva unita la famiglia era la musica, l'unica esperienza emotiva che riuscivano a condividere erano le lacrime del padre quando ascoltava i figli suonare. Insomma, un'infanzia non rosea, però la musica ne alleggeriva l'esistenza. Con l'adolescenza per Brian inizia la scoperta dei gruppi musicali del tempo e lui trascorre giorni, appena rientra da scuola, a suonare pianoforte e ascoltare i suoi gruppi preferiti, a partire dai Four Freshmen, che erano famosi per le loro raffinate armonizzazioni vocali. Quando avevo 14 anni iniziai ad ascoltare i programmi di Rhythm and Blues alla radio e capii nel profondo che un giorno anch'io avrei fatto musica così. Non sapevo quando, come e perché, ma sapevo che l'avrei fatto. A 16 anni gli regalano un registratore, un piccolo registratore, con il quale lui scompone, ricompone le melodie cantate dagli altri, le sovrappone, le usa per i suoi esperimenti musicali. Ero presissimo dai Freshmen, ero quasi uno dei Freshmen. Quasi mi identificavo con la voce in falsetto di Bob Flanagan. Riuscivo a cantare quasi come lui. Mi sono esercitato per un anno a cantare in falsetto come i Freshmen. E posso essere dannato se non imparai ogni singola canzone che hanno cantato. Sulla scia dei Four Freshmen, Brian inizia a scrivere le sue prime armonizzazioni che prova con la madre e i due fratelli, Dennis, che ha 2 anni meno di lui, e Carl, che è di 4 anni più giovane. Dopo un po', in queste session, Brian coinvolge anche il cugino Mike Love e un compagno di football, Al Jardine. È Mike Love che propone il primo nome della band, The Pendletons, come un modello di camicia che andava di moda a quel tempo, che i ragazzi indossano durante le loro prime esibizioni al liceo. Però è un nome che dura poco, sta per iniziare un nuovo decennio e con lui l'avventura di Brian Wilson, destinato a essere uno dei re dei favolosi anni 60 con i suoi Beach Boys. Parlando di Brian Wilson, la mente, anzi direi il genio che sta dietro ai Beach Boys, e in quel momento i Beach Boys potremmo definirli una boy band, anche se ovviamente la differenza è immensa. Immaginate le boy band di oggi, che sono delle unghie del mignolo rispetto a quello che ha fatto Brian Wilson con i suoi Beach Boys alla stessa età. Ma comunque, ragazzini erano i tre fratelli Wilson, il loro cugino e il loro compagno di pallone. Le prime prove avvengono in camera dei ragazzi, il primo manager è il padre, insomma tutto è fatto assolutamente in casa. E allora, com'è possibile che questo gruppo di famiglia in un interno abbia venduto più di 100 milioni di dischi con 80 pezzi in classifica e con 4 numeri 1? La risposta è semplice: grazie a lui, grazie a Brian Wilson, perché Wilson è stato musicista, compositore, produttore, arrangiatore. Tutti i musicisti che hanno lavorato con lui gli hanno sempre riconosciuto capacità particolari. Andava in studio già con l'idea di quello che voleva fare. Spiegava ai ragazzi cosa andava cercando. E se sorgeva un problema con qualsiasi strumento, lui lo suonava per far vedere cosa voleva e poi tornava alla console e continuava a mixare. Cioè, Brian era un musicista completo. First beat on the last bar of the intro. You go boom, two, three, four, pop, pop, and then start the song, right? Let's come in with us. Here we go, come on. Take four. Frankie, no, none of those big pickups, pop, pop, pickups just like that. Just not none of those, you know? E il primo pezzo scritto da Wilson per il suo gruppo si chiama Surfing. L'idea di legare la musica al mondo del surf non viene da Brian, è un'idea più di immagine che non di sostanza. Viene dal fratello Dennis, che era il bello della band, quello che va male a scuola ma piace alle donne. Lui in realtà era l'unico a cui piaceva andare per mare con la tavola, e però suggerisce alla band l'idea di usare il surf per legare il gruppo alla moda del momento, e l'idea è vincente. Brian scrive Surfing, i ragazzi presentano il pezzo alla piccola etichetta Candix Record, che accetta di produrlo. Quando Surfing viene mandato in onda alla radio per la prima volta, Brian ha una reazione fortissima. And the winner this week is Surfing. We won. Il vincitore di questa settimana è Surfing. E noi abbiamo vinto. È stata un'emozione incredibile. Avete sentito? Il presentatore ha detto The Beach Boys, quindi non ci sono più i Pendletons. E allora il nome, chi l'ha inventato? È stato un certo Russ Reagan, che era un promoter musicale della Candix, poi diventato presidente della 20th Century Fox Record, che al momento di scrivere i Pendleton decide che ci vuole un nome più evocativo. Su due piedi ne sceglie uno, The Beach Boys. I ragazzi all'inizio sono seccati, i primi 45 giri del loro Surfing sono già stampati e quindi non c'è niente da fare. È il 1961 e sono ufficialmente nati i Beach Boys. Brian Wilson ha 19 anni, suo fratello Dennis 17 e il piccolo Carl solo 15. Surfing is the only life, the only way for me now. Surf with ball, ball, dip, dip, dip, ball, ball, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time. Go and surf, ball, dip, dip, dip, surf, ball, dip, dip. E in breve tempo Brian Wilson compone e produce tre album che fanno la storia della musica pop californiana dei primi anni 60: Surfing Safari nel 62 e nel 63 Surfing USA e Surfing Girl. Nel 64 fanno uscire altri tre album e sono sei in tre anni scarsi. È un ritmo impressionante, lui ha solo 22 anni, ha già scritto canzoni che hanno popolato le classifiche ed è il mito dei musicisti con cui collabora. L'unico che sembra trattarlo ancora come un bambino è Merry, il padre. Non solo, lui è categorico sul genere di musica che vuole dai suoi ragazzi. Canzoni orecchiabili, commerciali, sul solco degli hit che finora hanno garantito fama e denaro a lui e alla famiglia. Questo va contro i desideri di Brian, che vorrebbe andare avanti. Alla fine Brian decide, ed è un bel colpo d'ala, di licenziare il padre. Murray voleva essere il loro produttore e forse pensava di esserlo all'inizio. E forse lo era davvero all'inizio. Ma in breve Murray divenne, come si dice, una spina nel fianco. Un vero problema per Brian. Liquidato il padre, Wilson deve affrontare anche un altro problema. Lui non ama andare in tour, detesta volare, i concerti lo tengono troppo lontano dal suo amato studio di registrazione. Ha una crisi di panico in un aereo diretto in Texas, così decide di non suonare più in giro. Al suo posto sul palco viene preso un certo Bruce Johnston e lui rimane a casa. Volevo rimanere a casa a scrivere. Non sono molto bravo a farlo durante i tour, quindi preferivo rimanere a casa a produrre nuovi motivi mentre i ragazzi andavano in giro. E stare da solo a casa significa lavorare tanto, ma anche riflettere tanto. Più riflette, più si rende conto che il mondo del surf gli sta ormai stretto, perché nella sua mente vede melodie sempre più complesse e gli sgorgano concetti molto più profondi ed è sempre più inquieto. Avevamo dato fondo a ogni possibile angolazione del mondo del surf. Poi siamo passati alle macchine, ma per me dovevamo solo uscirne, artisticamente parlando. E invece continuavano a volerci sentire cantare con amore, a sentire l'amore nelle nostre canzoni, davvero. Mentre io sapevo che avrei potuto fare qualcosa di davvero grande, perché lo sentivo nel profondo del cuore. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Intanto Brian Wilson deve subire un altro trauma e che gli fa rivedere ulteriormente le sue posizioni, perché in Europa è uscito un album bellissimo dei Beatles, si chiama Rubber Soul, dentro ci sono canzoni come Michelle, Norwegian Wood, Nowhere Man, Girl, e lui è con Graham Nash di Crosby, Stills, Nash Young e insieme a lui ascolta per la prima volta Rubber Soul, e di fronte a questo disco Brian resta tramortito, perché tutto è cambiato. Ha capito che l'asticella è stata alzata a un livello altissimo e lui vuole raggiungerlo quel livello, se possibile anche superarlo. Arrivò a un party nel sud della California. Ci facemmo una canna e qualcuno mise su Rubber Soul. Brian disse che era la cosa più incredibile che avesse mai sentito in tutta la sua vita. Se ci immaginiamo spiagge californiane, bikini, surfisti, viene in mente immediatamente un Mercoledì da Leoni oppure le musiche dei Beach Boys. E tutto questo è un po' riduttivo, perché in realtà i Beach Boys, ma soprattutto il loro leader Brian Wilson, sono ben altro, perché con Brian Wilson andiamo a toccare un livello veramente alto, non solo dal punto di vista delle armonie, ma anche nella capacità di costruire la frase musicale in modo sofisticato, sperimentale. Wilson ha il suo posto nella Hall of Fame dei più grandi artisti della musica contemporanea. Grandi musicisti dicono che Wilson è stato la loro fonte di ispirazione. Perfino Paul McCartney, che lo aveva steso scrivendo quel Rubber Soul, quell'album che fu la svolta per Brian Wilson, gli tributa grandi onori e sostiene che God Only Knows sia la sua canzone preferita. E quindi, come vedete, insomma, i grandi cominciano e vanno avanti a stimolarsi l'uno con l'altro, e in questo senso, grazie ai Beatles, Brian Wilson ha composto uno dei dischi più belli di sempre, Pet Sounds. Rubber Soul mi fece esplodere la mente. Mi dissi: eccolo, eccolo. Mi dissi: questo è quanto, è perfetto. E mi dissi che avrei fatto un album uguale, qualcosa con cui misurarmi davvero. Cazzo, se non mi piacque quell'album. Così lo schema è sempre quello: i ragazzi in tour con il suo sostituto e Brian in casa a creare l'album perfetto. Siamo alla fine del 65, lui ha solo 23 anni ed è già alle prese con l'undicesimo album dei Beach Boys, avete capito bene. E lui chiede al paroliere Tony Asher di collaborare ai testi, e quando gli altri Beach Boys tornano dal tour tutto è pronto, mancano solo le voci da registrare. Quando i ragazzi ascoltano le musiche, le reazioni non sono entusiastiche, perché non è che possono capire immediatamente. Soprattutto Mike Love considera il prodotto una specie di delirio dell'ego di Brian. Pensarono che fosse troppo artistico, troppo esplorativo. Così gli dissi: ragazzi, ne verremo a capo, ci lavoreremo sopra e lo finiremo. E così fecero. Quando l'album esce nel maggio del 66, il pubblico inizialmente è piuttosto tiepido, però tutto il mondo musicale è entusiasta. I Beatles, gli U, i Cream, e tra i grandi fan c'è Andrew Loog Oldham, che è il mitico produttore dei Rolling Stones, che ascolta Pet Sounds quando il produttore Lou Adler gliene porta una copia a Londra. Presi un vinile di Pet Sounds prima che venisse pubblicato e lo portai in Inghilterra per farlo sentire ad Andrew Loog, e venne anche Paul McCartney. Quando sentì il vinile pensai che fosse assolutamente fantastico. Vidi entrambi eccitarsi di fronte ai pezzi. A me piace questo, a me questo, oppure che bel riff. Sono stato cresciuto in una famiglia agnostica e Pet Sounds mi ha ridato la fede. L'album svela le due anime di Wilson. È un disco eccezionale, è molto innovativo. Wilson era un innovativo, un maniaco della tecnologia. Cominciava a costruire, a sovrapporre, a sovraincidere su una base di chitarra e pianoforte, aggiungeva un'orchestrazione sempre più complessa con tutti gli strumenti, dalle percussioni agli ottoni. Lui applica la stessa tecnica anche alla registrazione di Pet Sound, e brani apparentemente semplici vengono registrati in modo molto complesso. Good Vibration è l'esempio perfetto di quanto tempo ci volesse per raggiungere gli standard che Brian esigeva. Ci mettemmo molto tempo. Era una canzone che aveva una piccola frase ripetuta più volte. Aspettammo un mese e facemmo un'altra sessione. Poi iniziamo a registrare sessioni individuali e alla fine mettemmo tutte le sessioni insieme. Cioè, fu una produzione difficile. Fu la produzione più importante della nostra vita. On the wind that lifts her perfume through the air, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Quando Good Vibration raggiunge il numero uno della classifica, peraltro viene inserita nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre, Brian Wilson è già al lavoro per un altro progetto. Lui pensa a un nuovo album, vuole scrivere una vera e propria sinfonia. Parlava spesso della natura spirituale di quello che stava cercando di fare, e mi sembrava di ricordare che descrivesse questo progetto come una sinfonia adolescenziale diretta a Dio. Eh sì, sta per nascere il grande capolavoro. Smile. Lui ha bisogno di un paroliere diverso da tutto, più profondo, più intenso. Trova un ragazzino, uno molto giovane, Van Dyke Parks, che descrive come un ragazzo magrolino con un punto di vista unico e una predilezione per le anfetamine. E in questo caso la collaborazione diventa idilliaca per vari motivi. Fu una relazione semplice, onesta, non complicata, collaborativa. Un paradiso. Eh sì, forse anche il massiccio uso di droghe fatto assieme ha una parte fondamentale in questo sodalizio. Presi l'LSD e uscì completamente fuori di testa. In acido era come sentire tutto quello che potevo essere, tutto quello che potevo sentire. Ti dà il senso di tutto quello che puoi fare, quello che non puoi fare, e ti fa imparare ad affrontarlo. Sì, l'LSD irrompe nella musica, allarga le percezioni, ne parleranno i Beatles, ne parlerà Brian Jones, i Grateful Dead, insomma l'LSD diventa quasi un elemento fondamentale da affiancare alla ispirazione e alla voglia di comporre, e poi rende anche la vita molto divertente. Quando iniziamo Smile avevo delle idee folli, fumavo hashish a quel tempo. Ci sdraiavamo per terra, tenevamo il microfono sopra la testa e facevamo cose davvero folli ed estranianti. Beh, le follie sono un'altra caratteristica di Brian Wilson, ma anche della musica di tutto quel periodo. Lui, per esempio, si fa portare della sabbia in casa per sentirsi più ispirato. Feci mettere una vasca di sabbia nel mezzo del salotto e ci misi dentro il pianoforte per provare. Scrivevo in mezzo alla sabbia. Stavo con i piedi nudi nella sabbia mentre suonavo il pianoforte e secondo me faceva effetto. Sentivo che mi serviva. Ovviamente non sono tutte rose e fiori, perché con la droga iniziano i primi problemi e l'LSD, che è un potente allucinogeno, provoca a Brian delle allucinazioni anche quando non è sotto effetto. Comincia a vedere davanti a sé le note che si compongono come se fossero reali e intanto diventa depresso e paranoico. Mi chiamò una sera per fare una riunione, saranno state le 3 o le 4 di notte. Andai a casa sua e facemmo la riunione in piscina, dentro, perché sosteneva che non si potessero mettere microfoni nella piscina. Credo che quello fu il momento in cui finì la gioia, lo humor, il divertimento e arrivò, non so da dove, la paranoia. Brian Wilson comincia a peggiorare fino a quando si arrende all'evidenza, non riesce a terminare Smile, che da quel momento diventa una sorta di santo graal, è un album leggenda, un album che in molti hanno atteso per anni mitizzandolo, come Sir George Martin, il produttore dei Beatles. Avevamo sentito in molti di Smile, eravamo tutti eccitati, tutti lo aspettavamo. Le notizie che arrivavano ne dicevano meraviglie. Ora arriva, aspettiamo. E non arrivò mai. Avevamo aspettato invano. E così Brian Wilson cade in una depressione profonda, è sempre più dipendente dalla droga e alla marijuana e all'LSD, ha aggiunto anche la cocaina e l'eroina, è dipendente anche dal cibo, ingrassa tantissimo, passa il tempo a casa sul divano a guardare la televisione. Quando la situazione diventa ingestibile, la famiglia decide di affidarlo alle cure di uno psichiatra, il dottor Eugene Landy, che per un anno lo prende in cura e le cose sembrano funzionare, ma di fronte alle richieste di denaro astronomiche di questo Landy, i Beach Boys decidono di licenziarlo. Lo vidi trasformarsi da ragazzo alto e sottile in un uomo di 150 kg, quasi non lo si riconosceva. Viveva letteralmente a letto, con addosso un accappatoio, per moltissimi anni. Nell'83 le condizioni di Brian peggiorano e così la famiglia è costretta a richiamare Landy, che sembrerebbe essere l'unico ad avere la situazione in pugno, comunque l'unico che è in grado di gestirla. Lui comincia a dimagrire, Brian, sembra stare meglio, ma il trattamento di Landy è totale, lo controlla 24 ore su 24 e comincia a influenzare ogni aspetto dell'esistenza di Brian. Intanto il dottore arriva a farsi pagare anche $1 milione all'anno e stiamo sfiorando la circonvenzione di incapace. Le immagini del periodo mostrano Wilson regredito a una condizione di totale dipendenza dal suo medico. Solo nel 92 Carl Wilson, il fratello minore, riesce a allontanare Landy e a fargli revocare la licenza. Da allora, poco a poco, Brian Wilson torna alla normalità, anche se la sua psiche fragile viene tenuta sotto controllo medico. Nel 95 si sposa con la seconda moglie Melinda, sembra rifiorire. Nel 2004, 37 anni dopo la prima stesura, Brian Wilson pubblica un album che rispolvera il vecchio progetto di Smile, che intitola Brian Wilson Presents Smile. Il sogno della sinfonia diretta a Dio finalmente si realizza. Van Dyke e io volevamo un titolo che catturasse la gente, un titolo che gli piacesse ascoltare. E Smile, sorridi, ci parve molto adatto. Così la gente poteva dire: ehi, come sorridere? Di cosa si tratta? Le battaglie di Brian Wilson contro se stesso, contro i suoi fantasmi, non gli hanno impedito di essere uno dei più grandi musicisti del secolo precedente. Ha scritto cose meravigliose che esulano completamente da quell'immagine allegra da Surfing Boys dei Beach Boys. Appunto, lui era molto di più. ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare questo colpo d'ala e anche persone che sono cadute e sono risalite. E migliore in bocca al lupo a Brian Wilson, che può ancora dare molto al mondo della musica. Se volete segnalarci altre storie sulle quali pensate sia il caso di approfondire l'argomento, fatelo al falcoelgabbiano@radio24.it, oppure venite a trovarmi, a trovarci, insomma, su tutti i vari social. Se volete, sapete come fare. Ciao, a domani. I'm a